America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Non che la montagna abbia partorito il topolino, diciamolo, ma di certo la visita di Stato di ieri di Hu Jintao a Washington è stata definita più dalla politica dei piccoli passi, dalla continuità in materia commerciale, valutaria, di diritti umani che dalle grandi svolte. Insomma, ci siamo preparati molto a questa visita e non ci sono state delle notizie, diciamo così, scioccanti, un po' da copione. La piattaforma comune, solida, enunciata da tutti e due i leader, peraltro, resta quella della cooperazione nel rispetto reciproco, prioritaria su tutto il resto. Detto questo, Barack Obama, devo dire, è stato ieri molto più deciso che in passato. Ha parlato molto di diritti civili, di libertà di stampa, di espressione, di democrazia. Ha menzionato, cosa che non aveva fatto nell'incontro del 2009 a Pechino, il Tibet e l'importanza del dialogo con il Dalai Lama, questo devo dire di fianco al presidente Hu Jintao. Su alcune tematiche fondamentali c'era disaccordo prima di questo vertice, continuerà ad esserci dopo. L'incontro è cominciato nella mattinata di ieri sul prato della Casa Bianca con salve di cannone e inni nazionali. Avete sentito appunto le salve di cannone, una visita, quella di ieri, nell'insieme gradevole, iniziata nella mattinata, c'è stata la parata militare, gli inni nazionali, un paio di discorsi di benvenuto, ringraziamento, poi gli incontri di lavoro e poi Barack Obama in conferenza stampa ha chiarito di aver puntato molto sull'apertura dei commerci, prima ancora che su concessioni in materia valutaria. I told President Hu that we welcome China's increasing the flexibility of its currency, but I also had to say that the RMB remains undervalued, that there needs to be further adjustment in the exchange rate, and that this can be a powerful tool for China boosting domestic demand and lessening the inflationary pressures in their economy. Barack Obama ringrazia per l'apertura recente del presidente cinese sullo yuan, sulla valuta, però riafferma che il problema della sottovalutazione dell'RMB resta centrale. Poi c'è stato un incontro all'Old Executive Office Building dove c'erano una cinquantina di uomini d'affari americani, cinesi, devo dire erano soprattutto americani, con il presidente Hu e con Barack Obama. We will probably license about 20 million Windows Mobile devices this year, which is really quite dramatic, at least amongst smartphone systems. Steve Ballmer, amministratore delegato di Microsoft, si lamenta, dice che le esportazioni in Cina sono straordinariamente penalizzate appunto dai furti di proprietà intellettuale, dice che soltanto una persona su 10 che utilizza software Microsoft in Cina paga i diritti in modo regolare. Detto questo, ci sono stati accordi molto importanti sul piano economico. Le aziende cinesi hanno firmato 70 contratti per 25 miliardi di dollari in importazioni da ben 12 stati americani. Sono stati firmati 12 contratti di investimento per altri 3,24 miliardi di dollari. La parte del leone l'ha fatta la Boeing. Pensate che ha avuto un ordine da 19 miliardi di dollari per 200 aerei che saranno consegnati fra 2011 e 2013. E la contropartita da un punto di vista di ricaduta sull'America di quest'ordine è un appoggio a 100.000 posti di lavoro nel settore aeronautico, non solo la Boeing, ma ovviamente in tutto l'indotto. Complessivamente gli acquisti annunciati dalla Cina sono stati per 45 miliardi di dollari, una cifra che si traduce in 235.000 nuovi posti di lavoro in America. In serata la cena di Stato, il brindisi e poi l'intrattenimento, una lista di ospiti, devo dire, da pater de roi, come si dice. C'erano ex presidenti, c'era il presidente di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, c'era Cristina Manpur, fra i giornalisti di ABC News, c'era l'ex segretario di Stato Madeleine Albright, Barbara Streisand, la grandissima cantante, anche lei era invitata ieri sera alla cena di Stato, giornalista le ha chiesto così, dice, ma come mai sei stata invitata a questa cena? I giornalisti erano in attesa davanti all'ingresso della Casa Bianca per poter fare delle domande agli invitati, e Barbara Streisand, spiritosissima, senza perdere un secondo di battuta, ha detto: perché lavoro in un ristorante cinese. Infine, ovviamente, il vestito strepitoso della First Lady Michelle Obama, aveva un vestito rosso e nero con una grossa scollatura sulla spalla. Il vestito della First Lady è stato disegnato da Alexander McQueen, il grande creatore di moda, purtroppo mancato l'anno scorso. Solo un piccolo sgarbo al presidente cinese in questa sera: non c'erano né il capo della maggioranza al Senato Harry Reid né il presidente della Camera John Boehner. Hanno declinato l'invito come segno di protesta per la chiusura cinese all'idea di rafforzare di molto lo yuan, all'apertura commerciale. Devo dire, non sono mancati, alla fine hanno perso qualche cosa loro. E durante la conferenza stampa il leader cinese, quando gli hanno chiesto ma come ti senti che non vengono questi due leader, ha risposto: ma dovete chiederlo al presidente Obama, è stato lui che li ha invitati, saprà lui perché non sono venuti. È stato forse una delle poche battute spiritose di Hu, il quale in genere invece è straordinariamente severo, serio. Una conferenza stampa tra l'altro che ha avuto dei problemi perché non ha funzionato la traduzione simultanea. La conferenza stampa è durata il doppio di quello che doveva durare. A un certo punto, su una domanda delicatissima sui diritti civili, Hu non aveva risposto, sembrava che lo avesse fatto apposta, poi invece ha detto no, io non avevo capito perché non ha funzionato la traduzione. E parlando di diritti civili, finalmente Hu ha chiarito che la Cina è aperta a fare dei passi in avanti, però ha detto che è un paese che è ancora in un momento di sviluppo, di difficoltà, di riforme molto delicate, e dunque non può fare delle riforme radicali che rischierebbero di fargli scappare il paese di mano. Soprattutto ha detto: siamo aperti al dialogo sulla base del rispetto reciproco e della non interferenza. Un messaggio molto chiaro per Barack Obama, che ha risposto di aver parlato in modo molto candido a Hu. Ha detto: è vero che ci sono differenze, è vero che loro hanno dei problemi e che ci sono degli approcci storici diversi, però ci sono alcune cose che fanno parte di una radice comune: libertà di assemblea, di religione, di parole. Questo trascende la cultura, ha detto Obama. È innegabile che in Cina negli ultimi 30 anni c'è stata un'evoluzione, e poi ha aggiunto: e forse fra 30 anni avremo visto altre evoluzioni. Come dire, la strada sarà ancora lunga. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sempre difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sono stati annunciati i gruppi e i cantanti che parteciperanno al Festival di Coachella, il più importante d'America. Fra gli altri vi saranno i National. Di questo gruppo vi faccio ascoltare Apartment Story. Can you carry my drink? I have everything else. I can tie my tie all by myself. I'm getting tired. I'm forgetting why. Oh, we're so disarming, darling. Everything we did believe is diving, diving, diving, diving off the balcony. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.